Sommari! Perché? Sì, buonasera! Buonasera, come fa a vedere da pura? C'è una profagazione, sì, adesso aspetto i 40 metri. Stavo ascoltando i 40 metri. Certo, avete voi che 9:10 o 9:15. Una mezz'oretta. Hai fatto bene. No, io anche già adesso, 5 minuti. Anche se era 5:10, ma non per maturare, ma se sono qua pure di fuori e basta, ogni tanto arrivavo a forte, poi arrivavo a basso, allora sono passato a 23. Qualcuno arriva forte, qualcuno arriva basso basso. Magari sa quello basso dove si trova. Poi c'è anche un po', ci sono tutto bene, ma. Sì, addirittura. Allora, magari io arrivo basso e tu arrivi forte a loro. E succede così, no? Secondo la zona. Sì, sì, secondo la zona. Posso maestrare e ne arrivi la propagazione. Maestrale, anche domani è maestrale, non lo so, sì, anche domani è maestrale. Che so, che non cade a domenica. Ma me è bruciato la ghida maestrale, no? Non ti fa niente, grazie. Anche a fare in campagna, anche giù, tanto fa. Sì, va bene. No, che se deve mettere a posto, dobbiamo mettere a posto quel tubo. Ciao, lo perdescio. Ah, c'hai a mettere cos'è? È un macello, so. Cazzo, bisogna trovare la giornata calma, perché dopo magari più tardi lo fai peggio è, capito? Poi c'è sempre vento e sul tetto non va bene a salire. E tu bisogna fare la vento, se trovi una giornata bella. Sì, infatti così, una giornata bella, calma, così si fa. Io ho piazzato un'antenna, solo ho preso la bricco, funziona, prima seguo tutti i canali, con un'antenna solo. No, prima no, tanti anni fa non funzionavano, ci voleva sempre il primo. Allora, come appena giuro, mi viene tutto bene. Ciao, uovo, prendi. Ma infatti, cazzo, e non lo metta, quello centrale non lo metta tutta, perché era lunga, più di un metro, era fatto in due pezzi, non lo metto un pezzo in filo, corto. Ho visto che funziona tutti i canali, è un po' buono. Sì, no, funziona, già funziona bene, la Puglia, certo. Ma noi invece sono le cose che devi mettere tutti e due con la centralina. Forse ci vanno tutti e due. Ma anche io ce ne ho, ce ne sono due, sì, ma c'è colpa. Questa qua invece, ma piazza ho visto che funziona bene, e per cui va bene, quindi a tutti i canali. Perché quella centralizzata ce l'ho in cucina in sala, mentre questa cameretta ce l'ho singola l'antenna, capito? Sì, papà non è bello metterla sulla finestra, ma così ci vede mai. E poi non ci sono impedimenti di fronte, per cui e direttamente a Monteoro, tutto libero, ecco, perché magari funziona bene per questo. Sì, infatti è così, a Monteoro, e poi c'hai il coso giusto, libero ce l'hai, non c'è nessuno davanti. No, non fa l'attimo, non ce ne sono, tutto libero, da no. Prima, anche se a Tartella funzionava, già qua, senza prima, pochi anni fa, adesso però a Tartella non funziona, sempre se adesso sono digitale, prima era da lui, e se a Tartella funzionava. Sì, infatti è così, prima non funzionavano. Analogici non funzionavano, la voce digitale adesso funziona tutto. Ehi, ehi. E beh, questo come sta uscendo attorno, il 2009, quella registratura, come sta funzionando? Abbastanza bene, ci sente chiara la voce. Il segnale forte, la radio chiara. Io ho visto che cambiare, infatti, adesso è l'ultimo che ho preso, però, non è quello che ho preso prima, è l'ultimo che ho preso, il nuovo. Questa deve farlo, già funziona bene ancora. Sì, infatti, funziona benissimo, la voglia. E allora, ho già sentito Emanuele verso, che era? Verso mezzogiorno, chiacchierando con Nazzarino. Che era lui, però stasera mi sembra che lavorava. Oh, e allora mi lasci travagliando. Perché mi sa che mi ha detto venerdì, sabato e domenica era nel servizio di sera. E lui c'era già trattato. E si ricordava da quando andava a lavoro. E alcuni vagamente acceso lì, verso mezzogiorno. L'ho acceso ed era su 10 e mi sono fermato e sono entrato a salutare, ma 5 minuti, non di più. Sì, ma come? Tanto generalmente ha riposato a moglie, a mezzo scia. Ma è chiaro. E a chi mi diventa eccitato la notte? Che si vuole vigliare di sì. Niente, mi lasci da così. Ma se non ridete mi pare che devi alzare. Ma ridere mi pare, da ridere se non so, boh. Non so cosa stanno facendo. Non fanno 12 ore, boh. Ottore, boh, non so cosa stanno facendo. Ottore mi sembra che fa lui. Che fa 8 ore. Non ho sentito che sta lavorando. E mi gira la macchina e il turno e ce lo trovaglia. Perfetto, è così, perché trovagliassi. E allora mi sta bene che si seguì da loro, va bene, ma noi non viviamo io lì, per carità. Sono i pochi che vivono per rendita, magari uno che fa palazzi, appassamenti, non palazzi, appassamenti, allora si fai zezzetto da uno, zezzetto dall'altro, per vivere con quel coso lì. Hai visto che il principe ha ereditato 5.000 sterline, 5 milioni di sterline. Sì, 5 milioni di sterline. Quante milioni di sterline? Un milione di sterline. Ma gli anni sono 5, e in euro sono 7.000, 8.000. 8 milioni e più. E cosa lo dicia, fa un principe. È poco. Eh? Sassoli, ma la verità voglio farti intendere. Buonasera, amico. Infatti così ogni tanto bisogna farsi intendere. Se non c'è bisogno, e il medico ha tirato il svago, ecco pure là il svago, non so. Io sono componente dei bacini. Mi sto cavannaggio una delle attività che si è più io. Ma mi sto capunibile, o in mezzo alla minestra, o in mezzo ai romani, mi ha dato tocca per la mangiare la figlia. Anche quello bisogna fare. Se vuoi campare bisogna fare un sì. Ma Luca già è giovane, non ha bisogno di niente, va. Ma è il tiro capire, non mi lo devi fare. Sono a fermare di San Davide. E tanto non lo capiamo cioè, cosa da fare. Certo. Anche a Pugliano. Fatti così. E poi, certo. Io capisco, sono in casa, basta, tu non capisci l'inglese. Italiano, guarda che figlio di terrore a suonare l'italiano, ma no, bravo, ti conosco. Ecco, ho detto anch'io. Dice, lui, fare fratello, intanto parlo io. Fare troppo la sala, se non si comprende andiamo sì il tempo di propagazione va ancora sta facendo caldo per cui caldo dice ti punta che ti punta hai visto che ce la neve non è stato a fare neve tanto bisogna fare nel giro voglio Ci ha messo dappertutto queste cose succedono. Secondo noi sui punti che dove si trovano questi paesi. Ma sai che paesi di Israele in pericolo no, io in Italia non hai detto. Perfetto, costruiscono sotto la montagna e poi ci avranno tutto da voi. Se ti difendeva ti avranno tutto. Come ha fatto a Capri, ha visto? Non si immaginava quella frana, ha visto un anno da faccia. È così purtroppo. Come a fare che hai cura che non muori. Infatti cura che non muori. Ancora ci sei. Ma la mamma ci ha messo un nonno. Sì, Luca, ancora ci sei, sì. Sì, dai, io faccio risposta. Ci siamo fatti un po' di tempo, bene, ciao, ripeto, sono qua. E anche lui, ci risentiamo alle prossime. Andare, avanti Giovanni. Ciao, sentiamo, complimenti, ciao, capisco adesso. Uia. E qua non lo succedo. Si consente che attenti ancora. Se sono a rischio, se noi ci immaginiamo come succedono queste cose. O prima o poi, che attenti qui, le montagne frana lì. Ma ti aveva dato il consenso di costruire sotto la montagna. Credi per andato. So che sei sempre in pericolo. Se non riesci a dormire come ti devi dormire. Perché se ti difendeva dopo frana tutto. Alza quante giorni ci sono, non hai idea. Ho visto dunque dov'è, boh. Allora me la metto la gola, cazzo. Tutti sotto le montagne, cazzo, sotto la rocca macchia grezza, uno della rocca filippico, e mi chiami sotto. Cazzo, ma come fanno, cazzo? Sopra un po' poi, tra la strada, cazzo, pezzo in roccia, e ci bocca, e ci avrebbe già la faccia nera. Sì, no. Cazzo, è tutto dopo. Sono nel battito dei casi così. Allora, Giovanni, io l'autorizzazione di costruire sotto una montagna non ve l'avevo mai dato. Ecco cosa è. A queste miglia, a queste miglia, ecco. È la bandiera, a cosa di... In Spagna è la bandiera. aspetta, è a 20.000, quindi la dogana, no, e gira le montagne, tutte montagne, tutti i casi sotto le montagne, come fanno a colpire il casi lui? Ho detto che gli sciani della montagna non crolla, ma crolla prima o poi la crolla, ma c'è la nidicata e dice la nidicata, ecco cosa è. Secondo me si va a zona nuova, bella, però è un rischio, come le zone dei vulcani, capito? Cazzo. E terremoto eccetera, ma come fai gatta? Calugri di crolla una cosa, calugri, c'è un rumore di sì. Purtroppo è così. Se vuole andare da Nazi, vada sotto la montagna, non me l'avrei mai costruito. Perché sono sempre in pericolo. E poi crolla sempre a Derutti e crolla. Infatti adesso te lo dici, ma chi è rettilineo, sto è pericoloso, ma chi ci fa sapere, ma sono la cazzuccio, e poi a casa galleggia. Allora, come cercherò che cose che si paese a Cagliari o a Pace di Urbia e coso che si allaga tutto sempre e non le faremo di stare in centro Italia, cazzo, chilometri e chilometri di allargamenti, cazzo, ma cosa la fanno? E sono tutti abitati dove si fossi, capito? Tutto lavorato, cazzo, è purtroppo così, è contro la natura, non si può fare niente. Sì, ma se puliscono tutti quanti nei fiumi che passano e puliscono, sollevano il muro, qualcosa, io non penso che l'acqua esca fuori, ma ci metti in affitto, se non pure lo mettete nei burilli. Come è successo a Capoterra tanti anni fa, non avevo mai pulito i canali, è riuscita, è allagato il tutto, e tanti altri cose. Non sei mai tranquillo là. Il comune l'ha fatto mai nudo, non l'ha fatto. Allora se ne sono bisogno che ho pulito e vogliono sollevare gli argini di più, vogliono sollevare. Come se ce ne va pure. E la deve respirare leva pure. Se tu la respiri leva al canale, non succede niente. Sei più vecchio che la tutti. Grazie. Basta giusto così, il canale è forte, si piena, va fuori, per cui allaga tutto, va. Ma questo prende nella strada che va da Sorso a Cogio, lungomare, e ha dato un piano dei danni e cosa ho strumento, dici dove va pure, dici da, e non si poteva più passare. Allora comunque ha fatto lo dei stanziato, non so quanto, l'ha fatto pulire. E hanno fatto il ponte nuovo, hanno fatto ciò, perché aveva coronato anche il ponte che c'era. Adesso hanno fatto il ponte nuovo lì, per cui è più tranquillo, hanno pulito, hanno pulito gli argini, per cui va direttamente sotto il ponte e a mare l'acqua. Prima era tutto sporco, il ponte che c'era faceva tipo, e allora il ponte è stato costruito da tutto questo macarrame che c'è sugli argini del fiume. No, non ti sto dicendo lì, sto dicendo molto più avanti, faceva usciva il fiume, andava sulla per il mare, attraverso il bassotto, sotto la strada. Però era tutto pieno di camere lì, hanno stretto tutto e si è allagato tutto vicino, si è allagato un faccio di gas, mi pare, muro. adesso ho tanto peso di per pulirlo, sto quanto tagliare le camere e pulire il canale, ecco cos'è, sto non rompere, lascia pieno di canne, stiamo qui alle radici. Succede tutti gli anni allagamenti eccetera, ci sono dei punti troppo brutti e non li puliscono e anche le fognature eccetera, capito? E succede questo allagamento, capito? Sì, infatti così. Sono non puliscono, ma forse da poi di Bazzirano, il gatto venne, sto buttando tutto, di rapporto di anni buttato. Adesso anche quell'altro, quando hanno fatto il ponte nuovo, anche lì è tutto brutto era. E lì passava, si metteva quando, e tutto l'altro passava la vita. Chiaro che sta portando il monte, sta portando, e ha fatto il macello. Avevano messo un ponte di ferro, avevano messo un ponte a passare, perché la strada molto trafficata con... E per cui adesso sono tranquilli per tutto, va. Sì, infatti, adesso tranquilli, sì. Vedevo, ero campeggio, un muro. Certo. Passano le notte in chiesa. E poi è tutto vile in questa zona, era poco gatto, gatto. E per cui, ma hanno fatto, perlomeno, l'ho visto che stavano costruendo un ponte, dopo che hanno fatto il ponte, no, ponte nuovo non l'ho visto, però l'hanno fatto vedere alla tribuna. Sì, no, il ponte già è abbastanza bello, sono invece più passato. Nel mese di agosto, nel primo di agosto mi marinero, non ci sono passato lì. Ah, sai che sei fatto boccia a candidatini e dunque la piazza. No, ma sei passato, è un botte che hanno fatto il botte nuovo, mi sei passato, va. Non portare, va, dalla Budibundi, si passa la Budibundi, poi si passa dalla fila, prima della fila, già che arrivo, l'incrocio va a finire dopo il ponte, quella lì, dopo la fila passa, ma quella della Budibundi, la restauranti è fatta lì. Sì, la terza parte è facile, sta passando dritta fino a Maria di Giorgio e andate a Danazzeburu. Anda. E quella strada lì, adesso è una pezza. E tanto che non ci faccio lì. Tanto che non ci faccio lì. Io sono la rifaccia, aspetta, fino a me che stiamo andando a mangiare lì, dopo il nido di sorso. Molto più in giù però, 1 o 2 chilometri più in giù del mio discorso, che c'è un ristorante sulla sinistra, lì ci hanno messo a mangiare un paio di volte. Sì, ce n'è anche dopo 2 o 3 chilometri della maglia del sorso, ce n'è anche una a destra, ce n'è una a sinistra e una a destra. Non lo so quello di destra, a sinistra. È un bel punto, un bel punto quello che siamo andati lì. Abbiamo fatto il compleanno mio e il compleanno di mia moglie, anche di mia figlia una volta. 3 volte siamo andati lì. Sì, lo si mangia bene, sì, certo. Lo si mangia bene. E poi è di passaggio pure. No, siamo stati bene, va, stiamo stato bene, certo. Era proprio una trentina di sotto. Sì, infatti, meglio così. Meglio così. Usciti più grassi, facciamo più grassi, ma camminato. Sì, meglio fare delle cose, ma camminare. Adesso bisogna che la mia gheggia, anche se io non ho cacciato di un infarto. Cazzo, ma che grosso, cazzo, un bue, un bue, un bue pare. Maria, cazzo. comunque lì si è mangiato bene, là, perlomeno. Io volevo andarci tante volte, ma non si è venuto bene, andate, io andate. Però ci abbiamo andati per forte lì. Sì, sì, no, anche io c'ho. Io ci ho mangiato una volta, poi su quello di destra ci ho mangiato lo stesso. E poi adesso mi sono accorto, no, adesso devo andare a mettere. Poi ero la vicina rotonda, e avremo detto di mattessi. Sì, siamo andati, ho mangiato l'acqua, il caprolato abbiamo fatto anche lì a Lido, di sotto. L'altro anno abbiamo fatto, dopo il Lido a destra, da 100 metri, nemmeno pure, adesso ci sono andati lì, abbiamo mangiato. Anzi no, lì c'era la un matrimonio, era un matrimonio, un paio di volte ci siamo andati. Sì, no, io voglio. No, sono, io sono in Porto d'Orra. Nella storica rivalità, vicino allo Scoglio Lungo, vicino al porto, nella piazza. E vengono vicino a Gonad. Io sono vicino all'altro supermercato, c'è un ristorante, insieme. Un sacco di ristoranti che vi ho portato d'ora oggi mangiando. Ah, questo giorno no, un paio di volte siamo andati, però non era a lungomare, è detto il nostro storico. La prima volta siamo andati a cena, ci ha trattato bene. La seconda volta ci ha trattato male, dicevo tornato in più. Poi dove abbiamo mangiato bene anche a Corso lì a tra Tamora e Sosa. Un pescatore. Sì, anche lì sono andato. Insomma, era un po' che l'avevamo girata. Sì, prima ci andiamo a faccia all'altra. Ma vai, oggi andavano, dopo non camminare, ma che un via andava. Ma mangi di casa. Ma poi prima. Ma poi prima, poi. E allora, adesso non ci andiamo prima, vai. Ma perciò quando lo vado per fare il cazzo, non mi conviene, là. Eh sì, non conviene, no, non abbassi. Un anno siamo andati lì a Corso, là. Anni di giù, dopo di 2-3 anni, cazzo, il capodanno, cazzo, là. Già era una affamata che mi siamo andati, adesso io mi sono affamato ancora, so, cazzo. Magari il locale era fatto, ma se c'è questo lo si viene a 4-6. Pochi infatti non riuscito. No, così. Ma entrare, se non c'è il fame, se non ancora più molto di fame, ma andare, non tu per manco andavi. Ah, se no per allora manco fa passare i camerini, non gli attacchini, poi i camerini, a chi lo superi la passata, la gente di vita. Direi che abbiamo incasciato, però se non ci riusciamo a famare, sto, perché ancora me l'ha messo. No, così non conviene nemmeno, non conviene, no, e non lo facciamo a casa. Ma faccio che io mi sto rapido, sono più tornati per carità. Molti ci sono andati, ci hanno mangiato bene, ma l'anno che siamo andati noi siamo stati veramente male, veramente male. Poi ci fanno gli amici, per cui è successo anche nel trasfatto lì, per carità, quella veramente gli attorino, ecco, anche un capodanno. Per carità, tu gli attori di niente, di un male di vicino si può rialzare, cazzo, per carità, c'è quella persona. Poi lui, io sono fatto di denaro, sono mangiato, ho fatto un po' che nulla. Sì, per carità, però veramente è stato di niente. E non fai i nomi con Sante Marie. E anche molti altri. Un paio di volte mi sembra che siamo andati da Alcioso lì a San Camillo, ma ci sono andati. No, da quella parte non ci sono mai andato. No, non ho mai fatto nulla lì. E dopo c'era il formaggio. Il formaggio non c'era più, non c'è più e hanno fatto un agroturismo. E a volte si mangia bene, a volte si mangia male. Sono silenzio lì. Per carità, un anno siamo stati bene, un altro anno siamo stati male. No, perché sabato non mi sono mai andato. L'unica cosa che sono andato è con il dottore Stentino e anche io a mangiare. E non gli sa. Anche io non ci sono mai andato. No, a tutti a mangiare, anche io no. Ma cosa siamo andati a... a Saccanza, sì, a Saccanza stavo andando a fare il nome. E lì anche lì ci mangiava bene. Sì, io c'ero il 14 agosto c'ero a Saccaggia al ristorante. Ho fatto il compleanno in Chivi. E anche lì ci mangia bene, tanto bene, dai. Certo. Anche lì la sera per cui siamo andati anche a Osino, siamo andati anche a Lusi, a Rutrigo, e ci abbiamo detto in giro, sono detto in giro. E papà, avanzo finito, dai. Infatti, non faccio più di gente, perché rimane in casa, altri lì un po' carino. Vediamo, fai stammare bene i tuoi occhi, ma cosa vuoi tranquillo. E lui dirà, ah, sento, ma mangia ancora, rimane una ghita. Infatti, con che segnale rimane una ghita, rimane. Beh, ci sono i punti buoni, i punti cattivi, cazzo, cazzo. Ma se si tratta ora, cazzo, anche quello sembra tardisco, cazzo, è un bel caro, un bel caro. Infatti, ha già saputo da amici che gli stanno a trattato male. Hai pagato un montone di denaro, hai idrattato male, hai idrattato. Infatti un bel niente, l'hanno per la prima volta, la seconda volta, l'hanno lasciato già, e si è acciappato un bel biondo, si è acciappato. E erano quelli, cazzo. Oh, una volta, sono andato, siamo stati bene, dai. Un compleanno ho fatto un compleanno. Ma era un bel visto, cazzo. È un bel lavoro, per cui però abbiamo mangiato benino, là, per cui. Poi non ci siamo più tornati perché dice ci stava troppo male. Allora dobbiamo via andare. Adesso c'è il nuovo ristorante di Ernesto. Ed è Magliano parlato bene, che dice che è caro un po' e la cosa è buona. Non so, ma si vanno a mangiare fuori, vanno a mangiare. E cazzo è tutti che non mangia la roba che non mi piace. Già andando fuori la roba che mi piace e devo mangiare bene, non male. Pago, però devo mangiare bene. Fa pagare, non mangia bene, allora faccio il loro più. Infatti così si hanno a mangiare bene, non ma mangia male. Ma purtroppo il ristorante sono diventato un po' che ritoccare i muri. Io da questa morte già ne parecchia va il ristorante, lungomare, penso di dove. Ma che è tutto cambiato, giro solo a mettere la porta non ci vado più, capito? Ce ne sono parecchio, ho sentito ristorante, fino alla Marina di Giorno, anzi, fino alla notte alla Marina di Giorno. Qua c'è il fratello di Carlo Cusò, per un momento, fammo in piadanza, ci vedremo. Il cammino si accontra male, insomma. quando ci avanza scegliamo, se dovremmo andare in tiro se rimane a casa. Quando c'è il greppa, sa, si fa però, non sei sicuro ciò che c'è. Uno deve essere anche se magari si sentì tanti, dobbiamo magari dire c'è questo, tutto scritto, e sa che c'è questo e poi andare tranquillo. Infatti così. Ora nel posto che conosco, penso che mi devo tenere. Vabbè, ormai forse più o meno. Io ormai non riconosco più, ma i giovani già riconoscono, perché vengono da tutte le parti, capito? E sanno dove si può stare bene o dove si può stare male. Infatti è così, ma per un momento mi rimango così. Ah, ma gli vengo in casa al mattino, no, ogni tanto gli assicuro un'uscita là, fa che piacere, va. Poi specialmente quando sei in greca, va. Io ero greco, ogni tanto io avevo... Ma, chissà, più avanti vedremo. Che c'è vita, c'è speranza, c'è. Ma Gesù sì, quello già te lo dico io. Quando c'è vita, c'è speranza, c'è tutto. Poi c'è una vita che si chiede in tutti i colori. Bene, male, c'è meglio, tutto fa vita, tutta la vita è così. E non sei sicuro di nulla quando fai così. Salvo che non sai già, prendo tanto per questo tipo di passo, questo però tutto scritto e sei tranquillo che c'è, allora ci sto tranquillo. Infatti è così, di più non si può fare. Vabbè Giovanni, io mi preparo le bacchiglie e cominciamo a prenderle. Ci risentiamo alle prossime. Ok, stammi bene Giovanni. Corretto, ci sentiamo alle prossime, un po' più di me. Ciao, sono casa. Ciao. Io anch'io. Ciao Giovanni.